al Museo della Musica, sono credo una delle poche persone che può dire di aver aperto un museo. Il Museo della Musica nasce appunto l'11 maggio del 2004 in Strada Maggiore a Palazzo Sanguinetti, anche se in realtà le collezioni musicali bolognesi, che in realtà il mondo ci invidia, che ci hanno dato il prestigioso titolo di Bologna Città della Musica UNESCO, sono qui a Bologna da ben più tempo, dalla metà del Settecento. E io appunto, oltre a essere lavoratore, fiero lavoratore civico e pubblico del Museo Internazionale Biblioteca della Musica, sono anche un delegato sindacale del Comune di Bologna per i COBAS, e ci siamo incontrati domenica appunto sotto la pioggia per la nostra iniziativa di mobilitazione, il nostro sciopero al contrario, perché era domenica e quindi voi avete lavorato di fatto in giorno di riposo. In realtà, allora, devo essere sincero, il giorno di riposo dei musei, come per i barbieri, è lunedì. Ah, ok. Noi siamo i privilegiati che al lunedì possono stare. È stato definito dal barbiere di Siviglia questa. Noi facciamo queste battute pessime in radio, quindi guarda, se posso. Avete elogiato, e vi ringrazio, il tono della mia voce, una cosa che pochi sanno è che, parlando proprio del barbiere di Siviglia, è stata una cosa assolutamente casuale e veramente non provata. Voi sapete che il manoscritto autografo del barbiere di Siviglia ce l'abbiamo noi ed è esposto in sala 7 nel museo, e se ci andate proprio in questi giorni è aperto, perché noi ogni 6 mesi facciamo la cosiddetta notte al museo. Visto che noi esponiamo circa 250 libri nelle sale, e che sono solo la punta dell'iceberg della nostra collezione, noi abbiamo più di 110.000 libri di musica, quindi potremmo fare tipo 50 volte il Museo della Musica, poi insomma, diventerebbe diventerebbe un sequestro di persone, però alla fine tutta Strada Maggiore potreste fare di Museo della Musica. E tra le varie cose, noi possediamo per esempio il primo libro di musica stampato della storia dell'umanità, la Bibbia di Gutenberg della musica, si chiama O Armonice Musice Sodecatona, è stato stampato a Venezia da Ottaviano Petrucci nel 1501, e oggi al mondo ne esiste un solo esemplare, quello che abbiamo noi, ed è esposto al museo. Abbiamo, pochi lo sanno, ma se andate su Google e cercate un qualsiasi volto di un musicista del 7-800, Vivaldi, Cimarosa, Paisiello, Iommelli, Handel, Farinelli, Mozart, Rameau, Tartini, Wagner, Verdi, Donizetti, Bellini, non li so tutti perché sono più di 300, quindi finiamo così la trasmissione. Ma sono tutti qui a Bologna. Siamo il Facebook della storia della musica. Ah, sì, la prima opera, l'Euridice, il primo libretto, le prime, le abbiamo sempre noi, come abbiamo appunto il manoscritto autografo del Barbiere di Siviglia, quindi se siete curiosi di vedere, credo, una delle opere più famose, ma proprio in questi giorni, come vi dicevo, visto che noi ogni 6 mesi facciamo una notte al museo, di solito è a Ferragosto e a Natale, noi ci chiudiamo letteralmente una notte al museo e giriamo le pagine di tutti i libri, controlliamo, perché ovviamente i libri non possiamo tenerli aperti sempre sulla stessa pagina, e in questo momento al Museo della Musica è esposto proprio la cavatina di Figaro. Quindi se volete leggervi che bel vivere, che bel piacere, che bel piacere Perù, andate lì e lo vedete la prima volta che Rossini ha messo sulla carta, credo, l'aria più iconica della storia dell'opera, è a vostra disposizione. Ma fantastico! Wow. Immagina, e quindi voi tutta notte sfogliate, cioè funziona così, che c'è lo sfoglio del libro. Funziona esattamente così, sì. Hai capito? Tu sei mai andato, Stefano? Al Museo della Musica ci sono andato quando c'era stata la mostra di Andrea Renzini, che avrete odiato tantissimo perché c'erano queste a proposito di consonanze e dissonanze. No, non tanto noi quanto gli Hauser, i guardiasala, certo. Gli abbiamo fatto prendere dei colpi delle volte perché partivano gli aspirapolveri folletto. Esatto. Mentre invece quello che noi abbiamo qui a Radio Città Fujiko è Marco Roma, eccolo qua. Certo, come farselo mancare. Buongiorno, vorrei parlarti. Buongiorno, vorrei dirti tante cose belle, così belle, il cuore lo riempirò d'amore, con tanti baci, da Marco Roma, buongiorno a te. E mi raccomando, sintetico. A 333 180 94 94 se volete cantarci un'aria d'amore. Bene, l'aria d'amore ce la canterà, che ci ha dato già un piccolo saggio Enrico Tamellini delle sue qualità vocali eccelse, che ieri ha messo a disposizione di questa iniziativa. Noi siamo entrati, si svolgeva questa cosa in Certosa, perché si trattava di un funerale, giusto? Funerale in cui si entrava dall'ingresso Piangoloni, che è quello dove entrano i piangitori, giusto? E già quello partiva il mood della giornata. Già. Poi pioveva pure. Alle 11 in punto ha cominciato a piovere, esattamente all'orario in cui partiva questa iniziativa, che io ho chiamato flash mob, ma non era un flash mob in realtà. Era una giornata di sciopero, al contrario, appunto, come vi dicevo, ed era, noi l'abbiamo chiamata Mi rivolto nella tomba, una visita ribelle contro la morte della cultura pubblica a Bologna, quindi era il funerale che altri vorrebbero fare alla cultura pubblica, ma non noi, lavoratrici e lavoratori del comune di musei e biblioteche civiche del comune di Bologna, assolutamente. E noi siamo in stato di agitazione oramai da luglio, quindi da quasi un anno, contro le politiche, o meglio le non politiche culturali del comune. Le motivazioni sono tantissime, il fatto che il sindaco, quando era stato assessore alla cultura ancora nel 2021, aveva detto che servivano 150 lavoratori e lavoratrici per musei e biblioteche di Bologna, e ha perfettamente ragione in realtà, perché pensate, quando io venni assunto quasi 20 anni fa al Museo della Musica ero uno dei più giovani a lavorare nella cultura, ne avevo 29 anni. Dopo 20 anni sono ancora uno dei più giovani, perché nel frattempo non hanno assunto praticamente nessuno. In realtà il sindaco ha fatto un concorso dove però ha assunto neanche un terzo le persone promesse e necessarie, e poi ha deciso di chiudere le graduatorie, e quindi essenzialmente ha detto in cultura non si assume più nessuno. Quindi ha deciso proprio lui personalmente, cioè è una decisione questa in capo al sindaco? Ma tutti coloro con cui parliamo dicono sempre riferirò più in alto, quindi effettivamente noi la scelta, alla fine la scelta, le scelte strategiche le prendono sempre i sindaci. In alto. Perché così. Più in alto del sindaco non c'è nessuno. Quindi rispetto all'inizio siete partiti un certo numero e si è aggiunto giusto qualcuno, e poi è sempre rimasto lo stesso numero di persone da lì in poi? No, magari. Neanche? Guarda, nei musei, quando sono stato assunto io, sì? Solo nei musei eravamo 254. Oggi, malgrado questo mini concorso dove hanno assunto una decina di persone nei musei, siamo in 105. Perché nel frattempo la gente si è pensionata, giustamente, no? E quindi man mano che vanno via, e adesso non rimpiazzano più, lo dicono, no? Cioè, c'è questa cosa che riguarda un po' vari settori, anche la scuola, in realtà l'università, parlano adesso di non, però questo è a livello ministeriale, giusto. Quindi questa non è colpa del sindaco. Vabbè, certo, come da copione. Vabbè, un po' di musica per stare un po' più allegri ci sta, un attimino. Vabbè. Potevi mettere giusto su mezzo minuto. Potevi mettere su qualche cosa tipo meno una allegra. Marcia funebre magari. Ovviamente dei diritti d'autore. Ho messo quello che mi mandano i Boom Rush Promotions. E vai. Ago Burn, Young Loisel and Roots Republic. Ma Enrico, ti volevo chiedere, ma a chi è venuta là in mente di fare il funerale? Il funerale, cioè perché la certosa di tutti i posti che allora, potevate andare a... Il funerale viene in mente ai nostri decisori politici, non sicuramente a noi. Tra l'altro mi permetto di contraddirti, Chiara, la decisione è effettivamente del sindaco, non è che è di qualcun altro, cioè non esistono alibi. Stavo parlando dell'università, di altri settori che ci interessano maggiormente. Perché avevo allargato proprio il temone. In questo caso, sì. Vi ripeto, è lo stesso comune che lo dice che servirebbero le persone. Il comune, qualche mese fa, ha presentato il piano strategico dei musei, dopo che ci hanno lavorato per ben 2 anni. Nel piano strategico dei musei c'è scritto chiaramente, proprio nero su bianco, che solo per i musei servirebbero, aggiuntivi a quelli attuali, da un minimo di 39 a un massimo di 74 unità aggiuntive di personale. Tutto questo lo dice il comune, cioè è ben chiaro a tutti che dopo 15 anni di blocco delle assunzioni, se vuoi tenere aperti i 14 musei di Bologna, le 18 biblioteche del comune di Bologna, hai bisogno di personale nuovo, perché nel frattempo gli altri sono andati in pensione. Se non lo fai, a tenere in piedi il sistema sono sempre meno, ma noi non ci arrendiamo, appunto. Noi non vogliamo fare il funerale, noi non vogliamo chiudere le porte, noi le vogliamo aprire ancora di più nei luoghi della cultura, e per questo abbiamo scelto uno dei luoghi della cultura, perché in realtà anche la Certosa fa parte del settore musei, perché la parte monumentale della Certosa fa parte dell'area storia e memoria, che fa parte appunto del settore musei. Ed è un luogo meraviglioso, anche se non particolarmente conosciuto oggi. Tra l'altro, nell'Ottocento era un luogo dove si veniva durante il Grand Tour, tutti si fermavano e andavano tutti in Certosa. Ci sono anche dei tour che organizzano? Sì, assolutamente. Li organizza il mio meraviglioso collega Roberto Martorelli, che si chiama Mort. Lavorando lì. Ho sempre pensato, voglio andare a fare questa visita, perché l'ho sempre vista sui social pubblicizzata, mi ha sempre incuriosito molto. Non l'ho ancora fatto, ma lo farò. Ce ne sono tantissime di tematiche. Ecco, abbiamo preso questo tema e questo luogo perché per questa mobilitazione pubblica in cui noi abbiamo voluto fare quello che sappiamo fare meglio, cioè raccontare le storie della cultura, del patrimonio, dei musei, delle biblioteche di Bologna, siamo voluti andare sulle tombe di alcuni illustri bolognesi che hanno fatto grande la cultura di Bologna, perché secondo noi anche loro, se vedessero la situazione attuale, si rivolterebbero nella tomba come ci rivoltiamo noi, insomma. In solidarietà. Però aiutami a capire una cosa, perché tu hai parlato del piano strategico e il piano strategico dice che servirebbero delle persone in più, quindi in teoria dovrebbe andare nella direzione. Cioè, poi dov'è che si inghippa la questione? Che non li assumono. Il problema è che se tu lo scrivi sulla carta e poi non lo fai, se tu lo prometti in campagna elettorale e poi non lo fai, è evidente problema. Che il problema sta lì. Il problema ulteriore sta che il piano strategico, adesso non vi voglio ammorbare perché sono 284 pagine, di cui tra l'altro non abbiamo ancora la versione definitiva, vi annuncio, però una delle tante cose che ci ha preoccupato è che nel piano strategico è previsto dal 2025 al 2027 un taglio agli introiti dei musei del 33%. Quindi queste persone in più dovrebbero entrare gratis, diciamo. Dovrebbero, e questa è la sintesi, diciamo, il piano abbiamo strategico. Abbiamo fatto il calcolo 3 secondi insieme. Tutto sommato. La realtà supera la fantasia. Nelle biblioteche, per esempio, hanno iniziato a parlare, poi è una cosa che secondo me tornerà subito indietro, anche dopo la nostra mobilitazione, di usare i volontari per metterli al banco delle biblioteche. Nelle biblioteche è previsto un taglio del 20% dall'anno scorso a quest'anno sull'acquisto dei nuovi libri, e voi vi rendete conto che una biblioteca senza nuovi libri non ha granché senso. Anche lì volontari che cedono i loro... non lo so. Questo non è un modo di fare una politica culturale, no. Secondo noi. Ovviamente. Adesso vedrai che andrà a finire che magari fanno un bel progetto di alternanza scuola-lavoro, no? Così fanno lavorare direttamente gli studenti. No, perché si aprono questi scenari un po'. Guarda, Chiara, hanno già fatto tutto quello che voi pensate. Possiamo di proporre come qualcosa di distopico. E da un po' di anni che non assumono, quindi qualcosa l'avranno fatto. Nel piano strategico c'è. 333 180 94 94, se volete, qualcuno vuole inserirsi e commentare via SMS o WhatsApp, siete i benvenuti. Diciamo subito chi è che ha partorito il piano strategico? Ah sì, diciamolo. Oh, diciamolo, lo ha partorito perché siccome noi qua ci occupiamo di arte contemporanea, è un nome che i quattro spesso. Adesso spessissimo forse no, però sarà saltato fuori. Beh, comunque i nostri quattro ascoltitori, degli organizzatori del Festival dell'Arte Contemporanea. Allora potremmo fare un quiz, lanciamo un quiz. Chi è stato? Allora mandiamo l'indovinello, vediamo se qualcuno ci ascolta. Ok, vediamo e poi se regaliamo. Cosa facciamo? Cosa diamo scelta, in premio? Scelta multipla però. Cosa gli regaliamo? Un gel igienizzante per le mani all'aloe che ho qua di fianco a me e chi l'indovinello della trasmissione di stasera è chi è che ha lanciato il piano strategico per la cultura e la stessa persona, vi diamo questo indizio prezioso, che per molti anni ha diretto, ideato, anche lanciato e condotto il Festival dell'Arte Contemporanea. Vi do un indizio: non sono i lavoratori dei musei. Per pochi anni, perché è durato solo 3 anni il Festival dell'Arte Contemporanea. Sì, per tutti gli anni in cui è durato. Che è un grosso peccato, perché funzionava molto bene. E magari se continuava, forse non avrebbe avuto tempo per elaborare il piano. No. Abbiamo una risposta che però è sbagliata. C'è scritto per me è stato Beppe Maniglia. No. No, non era Beppe Maniglia che ha diretto e ideato il Festival dell'Arte Contemporanea di Faenza, e nemmeno lui che ha fatto il piano strategico per la cultura. Può darsi che magari se l'avesse fatto Beppe Maniglia qualche eurocento in più ci sarebbe scappato. A proposito di soldi, di numeri. Vai Cinzia. No, ne parlavate voi, volevo ascoltare il vostro. Perché vedo un Excel qua davanti a noi. Excel. A me piacciono queste cose, sai che qua tutti questi bei numeretti. Parlavamo dei tagli. Okay. Eravamo incuriosite dal discorso dei 33%, e da lì è partito un. Guardate, noi quello che vi portiamo sono i dati, non elaborazioni dei sindacati o i sogni delle lavoratrici e dei lavoratori, ma sono i dati che sono contenuti dentro il piano economico finanziario. Ce l'ho qua davanti, lo potete vedere anche è voi. È pubblico questo documento? Purtroppo no, perché continuano a dire che è una bozza work in progress, però è già stato presentato sia alle lavoratrici e ai lavoratori che anche alla cittadinanza. Oltretutto in quell'occasione il sindaco Lepore parlò di un aumento previsto delle entrate correnti degli introiti del 27,9%, mi pare, quindi una cifra anche di quelle che sembrano molto precise. E invece c'è un taglio del 33%. Noi ce lo andiamo a leggere. Abbiamo, cioè, uno scarto di... Insomma, entrate adesso. Vada chiaro, entrate correnti, cosa c'è scritto qui per il 2025? Allora, 5.726.582. Cosa c'è scritto per il 2027? 3.874.290. Fate i conti, è il 33% in meno. Io calcolo immediatamente, no, in realtà ho avuto suggeritore, matematica. Ho avuto suggeritore, sono io ho ricevuto un altro messaggio che dice: se nei musei non lavorassero persone preparate ed entusiaste, non potrebbero sprigionare tutta la bellezza che contengono. E questa è Elena che ci saluta. E ringraziamo tantissimo Elena per questo commento che qui è condiviso all'unanimità proprio. Calcoli veloci ci hanno portato a capire che c'è stato un taglio di 1.850.000 euro. Esattamente. Non è che c'è stato, è previsto dal 2025 al 2027. Andiamo anche a vedere da dove li tolgono. La voce, ovviamente sono tantissime le voci, perché per avere un calo di questo genere devi tagliare da molte parti. Per esempio, attività culturali e mostre. Cosa fanno i musei se non attività culturali e mostre? 2025 1.159.000 euro, 2027 928.000 euro. Ma il calo proprio principale, e questo è veramente una delle ragioni che ci fa ribollire il sangue, si ha nei servizi educativi, da 830.000 euro. Tenete conto che i servizi educativi oggi e a Bologna sono sempre stati un fiore all'occhiello. Bologna, i musei di Bologna sono stati i primi o tra i primi in Italia a dotarsi di dipartimenti didattici per i musei. L'anno scorso abbiamo avuto più di 150.000 studenti che hanno partecipato alle nostre attività, in maniera, tra l'altro aggiungo, assolutamente gratuita. A questo serve la cultura pubblica, certo. Anche per quelli che non se lo possono permettere. Bologna città metropolitana. Bene, servizi educativi 2025, dato, vi faccio leggere, sì. 830.095, per il 2027 38.780. È un calo del 95,5%, cioè un azzeramento. Cioè non è un calo, è una, togliamo tutto. È pazzesca questa cosa. Ma cioè, e quindi adesso faccio un attimo così, cerco di trovare una ratio. Non c'è, perché adesso i nostri ascoltatori saranno anche un po' smarriti, perché non c'è la ratio, noi andiamo a inseguirla, però effettivamente non la troviamo. Ma quindi questi soldi in più che dovevano essere. Io mi sono già perso. Soldi in più, questi 27% in più, e invece ci troviamo il 33 in meno. E sarà dentro, cioè faccio un po' l'avvocato del diavolo, dentro a un progetto di finanziamento da parte dei privati? C'è uno scenario di questo genere da qualche parte? Volete proprio andare proprio a rigirare il coltellino nella Ma avete detto è una cosa leggera, cioè, poi volete le cifre, i numeri, eccetera. Cioè, perché no, dico, scusa, come fa uno a tenere insieme, no, questo calo con questa promessa? Cioè, allora guardate, c'è una sola voce nel piano strategico che è in aumento anno dopo anno, cioè viene creata dal nulla, ed è quella per questo cosiddetto board strategico, che è questo gruppo di lavoro dedicato alla pianificazione strategica. Dice il piano: lo strumento principale per dare le linee di indirizzo strategico operativo, col compito di accompagnare i musei e l'amministrazione comunale nel percorso di implementazione operativa. Quindi fa parte di questo board strategico, lo sappiamo già? Di questo board strategico no, perché in questo momento non è ancora nulla di tutto quello che vi sto dicendo, è un piano strategico. Le strategie si implementano nel corso dell'anno. Sicuramente a questo punto, Pasquini, candidiamoci noi di Radio Città Fugico, di Coxo Spaziale. Scrivono: i soldi finiscono tutti in quel cazzo di progetto del tram. Ok. Perché hanno fatto le... Forse questo è Danilo. Hanno fatto le... Non si dice, perché sennò poi viene querelato. Allora. No, certo. L'hanno fatto tutto colorato, arte. Hanno fatto scegliere anche ai cittadini, tramite il sito del comune, come... che disegnini fare all'esterno. Pensavo quindi che il tram si ripagasse coi biglietti. No, comunque no, con i soldi per la cultura ci fai neanche le pensiline, neanche una pensilina. Sì, immagino. Però, come vi dicevo, questo board strategico, che sarà composto, oltre che dai direttori dei musei, da funzionari del comune, da un pool di esperti esterni con competenze multidisciplinari, con il compito di supervisionare la realizzazione del piano strategico. Il tutto con una spesa complessiva nell'arco dei 5 anni di 707.000 euro. Quindi, se vi volete candidare, sappiate che sono a disposizione circa 141.000 euro. Vi devo interrompere per la pubblicità delle 20:30. Oggi siamo tutto in ritardo. Siamo spaziale. Coxo spaziale. Ma avevamo una sigla. Cioè, avevamo una sigla. Aspetta che vai a trovare la sigla, perché che prima mandiamo la sigla. Intanto rilancio, mentre tu cerchi la sigla. L'hai già trovata. Scuso per la qualità, perché l'abbiamo suonata col cellulare davanti al microfono. Però guarda, per essere suonata modo così non è male. Questo era l'inno della nostra visita ribelle contro la morte della cultura. È un'aria scritta per Carlo Broschi, detto il Farinelli, altro ospite celebre della Certosa, e essendo noi in stato di agitazione, secondo noi era l'aria perfetta, perché il titolo è Son qual nave che agitata. Hai capito? Però dunque, cos'altro possiamo fare? Parlavamo dei 140.000 euro. Sì, siamo ancora sui conti. Intanto, per chi si fosse collegato su Radio Città Fuggito in questo momento, ricordo non che non si ferma più. Non, più, non mi si ferma più. Un martello. Non ho capito. La cultura non si ferma. Così, una volta che parte, esatto, no, in effetti non si fermava più. Possiamo inserire questa come app nel piano strategico, magari poi funziona, no? Prende può una essere persona e poi non si ferma più. Siamo con Enrico Tabellini. Okay. Che lavora al Museo della Musica, basso profondo. Volevo anche salutare Rachele, che non è potuta venire, che ci doveva raccontare della sua mostra alla Piccola Galleria, ma ha avuto di Ramon soprattutto. Esatto, infatti. Però vabbè, speriamo di averla, si è sentita male, allora speriamo di averla quanto prima. Lunedì prossimo, perché lunedì prossimo abbiamo la 528. Cioè, lunedì prossimo ci siamo sempre noi, sarà la formazione. 12. Esatto, perché va in onda in questo gap spazio-temporale una cosa che è già successa. Io invece, siccome abbiamo molta voglia di parlare, volevo togliermi di dosso questa facciamo cosa così, questa incombenza, perché è lunghino anche oggi. Da oggi comincio io, a Bologna si prepara a celebrare l'80° anniversario della liberazione, e dalla prossima settimana entra nel vivo il programma di iniziative che culmineranno con le due giornate più importanti, il 21 e 25 aprile, per ricordare la liberazione di Bologna e dell'Italia dal nazifascismo. Dal 14 aprile saranno visibili in città i poster con l'immagine realizzata per l'occasione da Gianluca Costantini, e le porte di Bologna ospiteranno l'installazione. Questo è il vostro vostro cellulare troppo vicino al coso. Grazie. Dicevo, e le porte di Bologna ospiteranno l'installazione Ciò che resiste, 12 grandi tele con i ritratti di 6 partigiane e di 6 partigiani bolognesi realizzati da Antonella Cinelli, che salutiamo. La bravissima Antonella Cinelli, ho visto qualche anteprima che ha condiviso sui suoi social e sono veramente ammirata. Molto bene. Il progetto evidenzia il filo che lega la lotta dei partigiani con la liberazione, con la Costituzione nata dalla Resistenza, frutto dei progetti, dei sogni e dell'elaborazione politica dei giovani e delle ragazze che decisero di combattere il nazifascismo. Le gigantografie resteranno esposte fino al 5 maggio. Quest'anno il Comune di Bologna e Città Metropolitana, insieme ai comuni del territorio, Ampi e Bologna, Istituto Storico Pari e Cineteca di Bologna, hanno dato vita a un unico programma di iniziative organizzate nell'area metropolitana per celebrare l'80° anniversario della liberazione. Su coxospaziale.blogspot.com domani troverete il link al programma completo, ma lo trovate anche nel sito del Comune di Bologna. E poi c'è anche questo. Da domani, martedì 15 aprile, è aperta la mostra Antonio Masotti, nascita di un museo, e quindi dalla morte della cultura alla nascita, nascita di un museo, a cura di Giuliana Zanetti, che salutiamo. Il 1° maggio 1975 veniva inaugurata nel quartiere fieristico la nuova sede della Galleria Comunale d'Arte Moderna di Bologna, fino ad allora ospitata a Villa delle Rose, progettata dal pittore e architetto Leone Pancaldi. Nel periodo immediatamente precedente l'apertura del nuovo museo, il fotografo Antonio Masotti documentò i lavori di inventariazione delle collezioni e di allestimento delle mostre inaugurali. A distanza di 50 anni, il Mambo, Museo d'Arte Moderna di Bologna del settore Musei Civici Bologna, celebra la ricorrenza, esponendo nel foyer del museo dal 15 aprile al 18 maggio 2025 con libero accesso una selezione delle stampe fotografiche originali di Antonio Masotti, accompagnate dalla proiezione su schermo di tutte le immagini acquisite in formato digitale per questa occasione, che componevano il servizio fotografico, al Mambo in via Dominzoni 14 a Bologna. Martedì 15 aprile alle ore 10.30 comincia un ciclo di incontri sull'editoria indipendente a cura di Paola Squizzato e Davide Tranchina. Il primo vede Walter Guadagnini, che dialoga con Tommaso Parrillo di Witty Books. Witty Books è una casa editrice indipendente fondata nel 2012 con il nome di Witty Kiwi, con l'intento di promuovere la fotografia contemporanea e la cultura visiva. Durante quasi 10 anni di attività, Witty Books ha collaborato con artisti giovani e affermati provenienti da tutto il mondo. Tutto ciò all'Aula Magna dell'Accademia di Belle Arti in via delle Belle Arti 54 a Bologna. Io ne approfitto per salutare Tommaso Parrillo. E se non conoscete Witty Books, conoscetela, conoscevatela. Perfetto. Andiamo avanti. Tommaso Parrillo, cosa c'entra con Witty? È il fondatore che dialoga con Tommaso Parrillo di Witty Books. Ok, ciao Tommaso Parrillo. Ciao. Ma vabbè, perché ero concentrata su quelle che devo leggere io, come al solito. Quindi andate domattina. Mentre passiamo a mercoledì 16 aprile alle ore 15 per il progetto Panopticon, incontro con la curatrice giornalista Bianca Cerrina Feroni dal titolo Il ruolo del curatore tra accompagnamento e promozione. Attività e strategie culturali nell'Aula Magna dell'Accademia di Belle Arti di Bologna. L'intervento sarà concentrato sulla figura del curatore di mostre, analizzando il suo ruolo nella progettazione e organizzazione di esposizioni d'arte e di accompagnamento nelle varie fasi di sviluppo di un'opera pubblica. Questo in via Belle Arti 54 a Bologna. Tocca a me. Tocca a te. Mercoledì 16 aprile alle ore 19 adiacenze ospita Stillness Speaks, listening performance di Hernan Paulitti a cura di Parsec. L'evento restituisce la ricerca sviluppata da Hernan Paulitti durante i mesi di residenza presso Parsec e viene realizzato in collaborazione con Adiacenze. La serata si articola in due momenti: una prima parte dedicata a esercizi di ascolto guidato focalizzati sul corpo e sullo spazio, e a seguire un momento di ascolto immersivo dal vivo. Tutto questo al solito in vicolo Spirito Santo 1 ad Adiacenze a Bologna. Mentre giovedì 17 aprile ore 18 la sala conferenze del Mambo ospita la presentazione del libro L'emancipazione del mondo, Susan Lacy e la forma della comunità, edizioni KBIT 2024 di Pietro Gaglianò, che salutiamo, che viene da Firenze, dove che viene da Firenze, lasciamo perdere. L'autore è in dialogo, no, perché poi so che Pasquini mi bacchetta, io volevo dire una cosa ma non la dico, magari facciamo il secondo indovinello, cosa dovevo dire io. Riprendo il filo, quindi l'autore è in dialogo con Caterina Molteni, Maura Pozzati e l'editore Marco Contini. Il libro è la prima monografia in italiano dedicata alla ricerca di Susan Lacy, Wasco, California, in 1945, artista militante, attivista femminista e inesausta sperimentatrice di formati educativi, alla sala conferenze Mambo, via Don Minzoni 14 a Bologna. Giovedì 17 aprile alle ore 18 la Fondazione Sabe per l'Arte presenta Vortice Cosmico, mostra personale dell'artista Andrea Raccagni, Imola 1921-2005, a cura di Claudio Spadoni. Esponente di spicco dell'informale italiano, Andrea Raccagni è stato un protagonista del panorama artistico nazionale per oltre 50 anni. Fondazione Sabe per l'Arte, via Giovanni Pascoli 31, Ravenna. Lo salutiamo dall'Alto dei Cieli. Brava. Noi alziamo il... Dopodiché passiamo a venerdì 18 aprile, dalle 17 alle 23 vi aspettiamo alla gelateria Sony di Ghiaccio, perché c'è Young Dictators Village, un video di Paolo Chiasera. Questo in via Tanari Vecchia 5A, sempre a Bologna. Sempre venerdì dalle ore 18 inaugura la mostra Traumtropfen, personale di Ingrid Blaurock. Durante la serata abbiamo letture di Tiziana Ramponi e di voci in capitolo. Tutto questo alla Millennium Gallery in via Rivareno 77 a Bologna. Martedì 22 aprile alle 18.30 apre la mostra Rovine e Libertà, segno 10 aprile 1945, il fiume, la battaglia e i paesi feriti negli occhi degli artisti della Romagna Bassa, con gli artisti Luigi Varoli, Aristodemo Liverani, Fioravante Gordini, Giro Croari, Anto Ricci, Anacleto Margotti, Carlo Visani, Paolo Guerra, Alfredo Giovannini, Francesco Verlicchi, Angelo Biancini, Giulio Ruffini. Un progetto di Massimiliano Fabbri alle Pescherie della Rocca, largo del Tricolore 1 a Lugo di Ravenna. La mostra è aperta fino al 5 maggio. Vi ho letti bene? Benissimo. Grazie. The Last One, lunedì 28 aprile alle ore 10.30, sempre per il ciclo di incontri sull'editoria indipendente a cura di Paola Squizzato e Davide Tranchina, abbiamo Walter Guadagnini che dialoga con Giovanna Silva di Humboldt Books. Humboldt Books è una casa editrice specializzata in narrazioni ed esperienze di viaggio che dà vita a progetti editoriali interdisciplinari, incrociando geografia e letteratura, fotografia e arte. Collabora con artisti, scrittori, fotografi, designer e architetti internazionali. Ne raccoglie le storie di viaggio, reali o immaginarie, e racconta queste esperienze con sguardo nuovo e non convenzionale. Nell'aula magna dell'Accademia di Belle Arti, in via Belle Arti 54 a Bologna. Yeah! Ok. E torniamo alla matematica, torniamo al mio argomento preferito. Torniamo a questa puntata di report. Torniamo. Mi sembra. Non è colpa mia, aiutatemi. Non è che qua. Cioè, salvatemi. Prendiamo atto della situazione, d'altronde, insomma, un pochino ci riguarda a tutti quanti. Assolutamente. Quindi. Allora, leggo qui dal piano strategico, ricordo l'indovinello, è arrivato qualche altro suggerimento? Non sono arrivati altri suggerimenti. Rilancio. Ma possiamo rispondere noi. Dai. No, dai, Elisa, rilancia tu l'indovinello. Qual era l'indovinello? L'indovinello è chi era il l'organizzatore. Chi è stato il consulente del piano strategico che ha anche organizzato il festival dell'arte contemporanea. L'hai detto tu. Che però in effetti è passato molto tempo. Cioè, Elisa era una bambina quando c'è stato il festival dell'arte contemporanea. Però quando abbiamo lanciato il primo indovinello era ancora piccolina lo stesso. No, era la ricerca. Posso rispondere io? Tentavo di esportare il file che invece poi. Infatti. Leggiamo un pezzettino di piano strategico. Poi diamo modo agli ascoltatori di rispondere aggiudicandosi come premio l'igienizzante mani all'aloe. e poi dopo invece se non arriva niente lo dirai. Allora, leggo: il piano prevede un incremento progressivo delle risorse attraverso il suo piano economico finanziario. Strategie mirate e azioni di fundraising, le proiezioni ipotizzano rispetto ad oggi un aumento di risorse nel quinquennio del 27,9%. Mi fermo. Quindi non ricordavo bene la percentuale, ma l'ho beccata proprio al centesimo. Questo poi è quello che c'è scritto. Poi però noi andiamo ad aprire. Questo è quello che c'è scritto nella dichiarazione di intenti, nelle promesse, nel comunicato stampa. Quello che ha detto il sindaco. Poi abbiamo appena letto le cifre. Mi chiedevate prima, appunto, anche qui si parla di fundraising, il discorso è che a fronte dei famosi 700 passa mila euro per il board strategico eccetera, l'aumento sempre 2025-2027, noi prendiamo l'arco dei tre anni, di risorse, quelli che si chiamano i contributi e erogazioni liberali da private, quindi il fundraising come si chiama in termini tecnici, è un aumento di meno di 60.000 euro, quindi un board che ci costa 141.000 euro stima di aumentare le risorse di 60.000 euro. Quello che abbiamo letto poco fa, che parla di più 27%, mm-hmm, è online. Sì, assolutamente. Mentre questo qua è invece quello che stiamo leggendo è online, andate sul sito corbascomunebologna.it, mm-hmm, okay. C'è un dossier che si chiama Musei il piano al contrario, questo è quello che noi come sindacale molto forte tra l'altro nel settore biblioteche e musei, nel settore cultura del comune di Bologna, abbiamo messo online, solo che l'abbiamo fatto noi come sindacato. Ed è l'unica voce che racconta la verità, però, nel senso che l'altro dice più 27, ma non esistono più quel 27% più. Ok. Forse è questo piano al contrario, no? Cioè dovevamo leggere per metafora attraverso questo logo splendido disegnato, dice Enrico Tabellini, da un grafico precario che abita a New York e che probabilmente non si è mai, l'ha detto così Enrico, precario, non so, se presumiamo che forse applicando la logica del piano è probabile, okay. Presenta sul logo le torri Asinelli e Garisenda al contrario, è il nuovo logo dei musei. Al contrario vuol dire, viste speculare diciamo, rispetto alla visuale, no, tipica. Ma io lo so perché quando ci facciamo i selfie davanti al logo, poi le torri verranno dalla parte giusta. Vuoi fare proprio l'avvocato del diavolo? Disperatamente cercando un senso a un piano che un senso non ce l'ha. Fra un po', per citare il poeta. Nel board. Questo è il piano di Stefano. Il mio piano è quello di essere assunto nel board e fare il piano quinquennale del 2029. Giusto? Comunque, per. Visto che siamo partiti dall'iniziativa in Certosa, permettetemi intanto di salutare, visto che l'avete citata, Uliana Zanetti, che è collega nonché colonna portante del MAMO, visto che avete salutato. Certo. Curatrice dipendente, come l'ascoltatore attento ricorderà. Infatti. Assolutamente. Ciao Uliana. Tra l'altro, figura che è votata all'estinzione, il curatore dipendente, perché fra un po', appunto, con questi. Ma smettila, Chiara, ma assolutamente no. Ma noi ci stiamo ponendo con le unghie con i denti, noi non siamo i panda, assolutamente, anche perché non la pensiamo solo noi così. Allora tenete conto che domenica, quando abbiamo visto le previsioni, ha cominciato a piovere a catinelle e noi abbiamo invitato la cittadinanza, la Domenica delle Palme tra l'altro, a venire in Certosa all'ingresso dei Piangoloni per fare una visita guidata sulle tombe di bolognesi illustri. Cioè già se ci fosse stato il sole dici vabbè chi verranno, quattro gatti eccetera, con la pioggia eravamo terrorizzati in realtà. Bene, tanti. Abbiamo dovuto, okay. La tomba che ho scelto è stata la tomba Rossini-Colbran, ma in realtà siamo andati sulle tombe di una delle prime precarie storiche dell'archiginnasio Teresita Zanichelli, siamo andati sulle tombe di Albano Sorbelli, che è stato un storico direttore sempre dell'archiginnasio, colui che aprì la biblioteca popolare nel 1909 in Santa Lucia con la prima con orario serale per permettere anche agli operai di andare in biblioteca. Abbiamo raccontato le storie del primo direttore, bellissimo, della scuola Aldini Valeriani, Sebastiano Zavaglia, di Giosuè Carducci, Giorgio Morandi ovviamente, che le colleghe del Museo Morandi hanno parlato. Morandi, che sono state bravissime, mi hanno quasi commosso, devo dire. Ma quando parlano le lavoratrici, i lavoratori della cultura, noi siamo sempre commoventi. Abbiamo due minuti e mezzo di tempo per allora, due minuti e mezzo in cui dobbiamo anche dire chi era quel famoso personaggio che ha redatto il piano strategico. Lo devi dire tu a questo punto. A questo punto lo dico io, lo diciamo perché non è arrivato nient'altro, non vorrei non fare in tempo. Si chiama Pierluigi Sacco, qualcuno lo che ricorda? Salutiamo. Che salutiamo. Enrico, volevi dire? No, vi stavo dicendo, così concludiamo in bellezza, perché è stata, esatto, malgrado il luogo, sembravamo un po' taffo in, diciamo, a in promuovere effetti questa cosa. No. Però è stata una festa, perché è una festa di popolo. Il mio discorso appunto sulla tomba Rossini-Colbert l'ho dovuto rifare 8 volte, perché abbiamo dovuto fare 8 turni da 100 persone ciascuno, perché è venuta sotto l'acqua battente una folla oceanica di persone, e quella per noi è stata, a parte l'iniezione di fiducia, un modo anche per riuscire a parlare veramente alla cittadinanza come noi volevamo fare, in vista ovviamente dello sciopero che ci accingiamo a fare se l'amministrazione continuerà quello a non vero, rispondere, dice. Sì, assolutamente, ma anche per lanciare una petizione pubblica, si chiama proprio sulla piattaforma change.org, per una cultura pubblica accessibile e gratuita. Naturalmente andiamo domani su coxospaziale.blogspot.com troverete il link, come sì, l'avete già trovato sui nostri social personali. Ci sono appena andato dalla pagina proprio della nostra mobilitazione, che si chiama pubblicamente cultura, su Facebook la trovate, in 24 ore hanno firmato già in 2101. Però non male per niente. Un bel trend di crescita. Complimenti. Prossimo obiettivo 2105. Naturalmente tutto questo perché l'avevamo menzionato a Coxo Spaziale lunedì scorso. Assolutamente, certo. Sì, certo. E i nostri 2101 ascoltatori sono venuti tutti e hanno firmato. Molto bene, io vi ringrazio tantissimo tutti quanti, soprattutto Enrico Tabellini che è venuto fin qua malgrado la pioggia anche di oggi. Che adesso grazie, però Enrico. Ci saluta con una bella cantatina di una frazione di secondo, dai. Due vocalizzi. Adesso devo abbassare di nuovo il... Non fatemi questo! Bellissimo. Un applauso. Io ero Lisa Mignemi. Io ero Stefano W. Pasquini. Ah. Io ero Chiara Pergola. E io ero Cinzia Corda. Grazie. Ti abbiamo messo le corde e io mi sono scordata. Non ti preoccupare. Alle. Come al solito vi salutiamo con il nostro direttore di radio che ci commiata così. Con questo basso livello di radiofonia ascoltiamo la sigla. Che non può essere altro che Vomito di Speciale Dolore, che salutiamo anche lui. Sempre i nostri cuori. Grazie ancora, ci sentiamo lunedì prossimo, sempre dalle 20 alle 21. Eravamo ancora in onda, non so neanche cosa dire. Il vomito, la città, cosa succede? Qualcosa non va, mi fa venire il vomito, la realtà. Cosa succede? Qualcosa non va. Mi fa venire il vomito la città. Cosa succede? Qualcosa non va. Mi fa venire il vomito la città. cose che vedo sul web. Che schifo le cose che faccio con te. Che schifo la merda che ho dentro il panino. Che schifo svegliarmi nel mio lettino da solo. Come un coglione, come un coglione, come un coglione. Che schifo le cose che vedo in giro. Che schifo le cose che tiro. Che schifo le cose che vedo. Che schifo le cose che credo. Che schifo le cose che vedo in giro. Che schifo, che schifo. Che schifo, fa tutto un po' schifo. Che schifo. Prenoto il dermatologo. Vado dallo psico.